L'edizione di quest'anno è la 30ª e quindi segnala da un lato la storicità di una manifestazione che nel tempo è riuscita a mantenere vivo un rapporto con le nuove generazioni. Infatti quello è il nostro focus, cioè quello di valorizzare tutta la nuova scena 30 anni fa indipendente, oggi emergente, italiana, che fa musica con competenza, passione, innovazione al di fuori dei circuiti delle major. Abbiamo avuto oltre 600 iscritti al contest Under 25, abbiamo un sacco di band con etichette contest che si propongono, e quindi diciamo che il MEI sta diventando, forse paradossalmente oggi ancora più di un tempo, uno spazio vitale perché ha nuove proposte fuori dal mainstream, perché questi sia per le piattaforme streaming digitale che per altri motivi si stanno restringendo sempre di più questi spazi di libertà creativa. La manifestazione si tiene dal 4 al 6 ottobre e gli ospiti principali sono tutti ospiti legati a un filone, chiamiamolo folk, cantautorale, world, etnico, e sono tutti artisti che hanno un rapporto storico di amicizia col MEI perché hanno mosso i primi passi al MEI. E quindi il 4 ottobre avremo Diodato, il 5 ottobre Roy Paci con gli Aretusk, il 6 ottobre Banda Bardot e Cisco. Poi ci saranno tanti altri che si esibiranno, in particolare ha aderito al nostro appello su Faenza Alluvionata, che è un tema portante della manifestazione di quest'anno, ahimè purtroppo anche come l'anno scorso. Artisti come Vinicio Capossela e anche la Nazionale Cantante ha detto che vorrà fare un'iniziativa su questo, e Vinicio Capossela comunque sarà presente il 5 ottobre. Daremo segnali attraverso le nostre premiazioni di un nuovo modo di fare musica che riteniamo importante fuori dai circuiti ufficiali, quindi l'artista indipendente dell'anno sono gli Estra, guidati da Giulio Casale, uno straordinario artista, Coca Puma, l'artista emergente dell'anno, e L'Amante per il miglior videoclip. In che modo vede comunicare le vecchie generazioni con le nuove all'interno di questa edizione? Ci troviamo come di fronte a due mercati oramai musicali. Uno è il mercato dell'intrattenimento, che è quello che conosciamo, che è quello fatto dai festival estivi musicali, dove c'è la stessa canzone praticamente che si prolunga per 3 ore, cambiando solo quelli che vanno sul palco a cantarla con le basi, con l'autotune, senza più musicisti sul palco, perché oramai è fatto tutto attraverso app, basi elettroniche, arrangiamenti che si assomigliano e testi molto banali e semplici, facili da cantare tutti collettivamente come in un grande villaggio vacanze. Dall'altra parte c'è oltre l'80% dei giovani, tanto questa narrazione che i giovani seguono e fanno tutto questo nella musica, una narrazione completamente falsa, perché oltre l'80% dei giovani invece fa esattamente il contrario: impara a cantare, studia gli strumenti, li conosce, ha competenze, cerca di innovare, impara a utilizzare uno studio di registrazione, insomma fa le rock band, fa canzoni lunghe, profonde, riflessive, e cioè tutto ciò che oggi il mercato delle piattaforme streaming, che sono i veri assassini del mercato musicale indipendente ed emergente che vuole rinnovare la musica, non vuole, tutto ciò che non vuole. Quindi il MEI mantiene questo legame perché chi si approccia oggi diciottenne alla musica continua ad avere quel tipo di riferimenti, e quindi i riferimenti sono le migliori band degli anni, artisti degli anni 70, 80, 90, sono come riferimenti, come echi a cui fare riferimento. Addirittura noi abbiamo sperimentato che i giovani diciottenni del nostro territorio hanno fatto un'orchestra, Santa Valera, che riprende esattamente come erano suonati allora i brani della storia dei Giganti del Liscio e li porta al pubblico e ottiene un successo straordinario. A Rimini, lo dico come aneddoto curioso, ci è capitato sul brano Dada, che è un brano storico di Secondo Casadei che si potrebbe cantare anche oggi, c'è stato fatto uno stage diving da parte dei cantanti che si sono buttati sul pubblico e sono stati tenuti su mentre andavano a canzone di Liscio. Credo una cosa mai accaduta. Qual è quindi la differenza? Che noi abbiamo giovani competenti che si sacrificano, che studiano, che conoscono la musica, che paradossalmente costruiscono un mercato culturale che viene penalizzato dalle major e dal mercato dell'intrattenimento, che vuole invece giovani incompetenti, isolati, da soli, non vuole più le rock band perché costano troppo, che nella loro cameretta fanno canzonette usa e getta. Questo tipo di mercato che tuteliamo noi, per la nostra parte sviluppiamo, andrebbe tutelato da tutto il nostro settore culturale, a partire dal Ministero della Cultura fino al più piccolo comune. In che modo questa cosa si può mettere in discussione poi con la gestione del territorio urbano? Per esempio, appunto, qua a Bologna è sempre più difficile trovare degli spazi all'interno del quale fare eventi musicali. Immagino non sia solo una questione di Bologna, ma è proprio nazionale. Sì, appunto, è una situazione che si è un po' espansa a macchia d'olio dopo il Covid. Bravissima, tu hai colto quello che è il nocciolo centrale. Il Covid ha, come dire, è stato il termometro di una crisi economica che poi è arrivata e ha fatto chiudere dal 30 al 50% degli spazi live per le piccole realtà musicali, quindi club, festival e contest, club dall'autunno alla primavera, festival e contest nel periodo estivo, molti hanno dovuto chiudere. In più non c'è una politica culturale degli enti territoriali su questo aspetto, come c'è di grande attenzione verso i musei, i teatri, il cinema e altre arti e culture. Legittime queste attenzioni, ma non c'è la stessa attenzione, addirittura purtroppo, e poi ne paghiamo anche le cause in altri termini di disagio, non ci sono più investimenti nei cosiddetti piani giovani che una volta gli enti locali facevano, è stato completamente abbandonato questo settore. Quindi ci troviamo nella situazione in cui il settore musicale è un patrimonio straordinario che può essere rinnovato solo dalle giovani generazioni, rischia di non trovare un futuro perché non incassa un euro dal mainstream commerciale legato alle piattaforme streaming digitale. Tanto lo dichiarano anche loro, perché hanno detto che con le piattaforme digitali in Italia 1500 artisti hanno superato italiani 10.000 euro lordi di fatturato, una cifra ridicola. Se si pensa che con 10.000 euro lordi c'è l'IVA, devi pagare le tasse e oltre all'artista ci sono da pagare gli autori di testi e musiche, chi produce il brano, chi fa il video, l'ufficio stampa. Quindi si capisce benissimo che le piattaforme digitali hanno rubato le risorse economiche della musica, che una volta erano al 90% superiori con supporto fisico e che se le tengono tutte loro col mercato digitale. Quindi o si fanno dei piani di intervento come si fanno nel settore cultura per la musica, oppure il rischio è proprio quello di una piano piano di una scomparsa di coloro che suonano, perché non ci sono le risorse.